Forza, Cherie. Un po' di ginnastica per svegliarci per bene. Uno, due, uno, due. No, scusa, Cherie. Quei pantaloncini sono un po' troppo attillati. Benvenuti all'Early Bird Special. Aloha, sono Chuck Bird, questo è l'Early Bird Special, venerdì, grazie a Dio è venerdì. Finalmente siamo arrivati al fine settimana, che sarà sicuramente un fine settimana super rock and roll, perché lo so che voi siete dei super rock and rollers, passerottine e passerottine care. Venerdì, un grande giorno, se non siete una triglia, una trota, un pesce persico, naturalmente. Tutti gli altri animali possono stare tranquilli. Animals, we gotta get out of this place. In the this dirty old part of the city where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my dad. Get out of this place. Prima o poi ce ne andremo via tutti da questo posto. Ho un tipo nel New Jersey, ha trovato un sistema veramente originale per lasciare questa valle di lacrime. È morto per soffocamento per aver ingerito i lustrini attaccati al capezzolo di una ballerina in un locale di striptease. La cosa incredibile è che la ballerina, interrogata dalla polizia, commentò: non credo volesse mangiarli, era solo un po' brillo. Attenti a cosa mettete in bocca, passerottini. Oltre a farvi piuttosto male, potrebbe anche fare incazzare parecchio vostra moglie. Foreigner all'Early Bird Special. Questa è Double Vision. Oh, Rainer, Double Vision. Oh, vi siete mai chiesti quanto c'è della vita di un musicista nei testi delle sue canzoni? Beh, pare proprio che una ragazza chiamata Devon abbia ispirato Jimi Hendrix nella scrittura di alcune delle sue più belle canzoni. Volete sapere il resto della storia? Allora ci sentiamo dopo i Kingdom Come. Love can be. be with me. Kingdom Come, What Love Can Be. Ma era di Jimi Hendrix che vi volevo raccontare questa mattina. Con le sue canzoni, Jimi Hendrix riuscì ad avere successo. Comprò casa, la sua Corvette e amò donne bellissime. Quasi tutte restano convinte del fatto che Jimi Hendrix abbia scritto per loro le sue canzoni, naturalmente. Di tutte le sue famose compagne, nessuna sembra averlo però ispirato di più di Devon Wilson. La tormentata relazione di Jimmy con la Wilson è stata forse ben descritta in Dolly Dagger. Versi per la Devon possono essere riconosciuti anche in qualche passaggio di Freedom, Crash Landing e altri testi. Sappiamo per certo che nei suoi testi si ritrovano persone e situazioni della sua vita. La leggenda vuole che Fire viene dal consiglio della madre di Noel Redding per Hendrix di riscaldarsi più vicino al loro camino nel Kent. Billy Cox ricorda Jimmy spiegare che Belly Button Window fu ispirata da Lynn, la moglie incinta di Mitch Mitchell. Jimmy immaginava che, prima di nascere, il figlio di Mitch sbirciasse dall'ombelico della madre facendo attenzione a tutte le cose interessanti e ai suoni del mondo che sarebbe venuto. E chi era in realtà Foxy Lady? Non lo sapremo mai con sicurezza e forse è quello che Jimmy voleva. E Stone Free era ispirato a qualcuno in particolare? E chi lo sa. Io nel mio piccolo posso però dedicarla a voi, passerottini e passerottine, che anche questo venerdì 9 novembre avete deciso di fare la vostra prima colazione all'Early Bird Special. You and I, please. Yes, and you and I, e io e voi, cari passerottini e passerottine care. Oh, che bella compagnia, anche per questo venerdì, l'inizio di questo weekend. Però, è difficile andare avanti senza la mia tazza di caffè nero bollente. Ma dov'è la mia Cherie? L'ho persa un po' di vista. Eccoti qua. Merci, Cherie. Grazie ancora del sostegno che dai al vecchio Chuck Bird.